potrà. È meglio Gesù. Se qualcuno. Oh, gente buona. Conferma, ti ascolto, tu mi ricevi in cambio? Sì, sì, sì. E come si è la batteria, che sono quelle che ci mettono nelle moto, con le batterie piccoline, quelle lì, si è comprato. No, no, una moto, non so come sono nelle moto, ma è una batteria di 9 ampere, quindi sta comodamente in un piccolo borsello. 9 ampere e sto modulando con questo, anche perché io ho telefonato alla Midland in continente, che la stanza che non c'è. E ho chiesto, siccome nel pacco batterie originali ci vanno 8 batterie da 1,2 ricaricabili, per un totale di 9 volt e 6. Ho chiesto se mettendo una di 12 o una di 9 la potenza è la stessa, cioè 4 watt, perché nel manuale c'è scritto potenza 4 watt. Mi hanno detto no, più è alto il voltaggio e più alta la potenza, quindi ho fatto questo trucco. Sì, è vero, così il voltaggio è alto, la potenza sale, ti dico di tanto, ma non può stare. Comunque dovrebbero scriverlo nel manuale, perché ripeto, nel manuale c'è scritto che l'apparato può funzionare tra 9 volte e 12 volte e mezzo, che praticamente è il voltaggio della batteria della macchina, perché io qua ho anche la finta batteria con l'adattatore dell'accendino della macchina. E quindi, diciamo che ho comprato la batteria perché le batterie da 1,2 costano un accidente e ho preferito fare questo martingegno. Da 1,5 sono le batterie, non da 1,2. No, perdonami, da 1,2 quelle ricaricabili. Il pacco devo mettere 8 batterie da 1,2 perché hanno anche in dotazione l'alimentatore da me. Posso anche mettere quelle da 1,5 alcaline, naturalmente senza il caricabatterie, perché se metti il caricabatterie si bruciano le batterie. Non ti scoppiano direttamente. Io capisco, io non ho molta fiducia nelle batterie ricaricabili, però che durano poco, non hanno la stessa resa. È fatto bene a fare così, professionale per la partita. Ah, non vengo tu in macchina, te lo puoi vendere, basta che ti compri un'antenna con base magnetica, l'andate sulla capota e puoi parlare tranquillamente, ti fermi al quadrato e parli così. Ah, beh sì, anche questo è vero, anche se io dico la verità, io metto la macchina al posto della noce e da lì non la tocco, perché a trovare un parcheggio è più facile vincere al nostro che non trovare un parcheggio da queste parti. Lo so, ma di per sé parte della città, infatti dovrebbero fare più parcheggi. È un casotto a cercare tra i posti di città. Io ho un amico che abita e non sposta la macchina per paura di non trovare parcheggio quando torno a casa. Guarda, io 30 anni fa, quando sono arrivato dal continente a Sassari, allora non c'era il problema grave del parcheggio. Ho fatto la sciocchezza di comprare senza neanche il portone. Ora, col senno del poi, se non c'è almeno il posto auto personale, non condominiale, personale, non l'avrei comprato la casa. Io ce l'ho, c'è la cancella di storico, tutto qua. Lo so, ma quando sono arrivato qui, ripeto, qua in via Principessa Iolanda, dove sto io, parcheggi si trovavano bene o male, poi c'è il posto della notte, ma ora proprio si riesce a trovare al posto della notte dopo le 19 e non di sabato e domenica, perché c'è il cinema, si riempie tutto il cinema militari, squadra da caserma, che già alle 7 della mattina occupano tutti i parcheggi. Ci credo, ci credo. Sì, uffici, diciamo quelli che vanno a lavare per vedere parcheggi di sangue e la mettono lì, come faccio anch'io a volte. No, guarda, il fatto di abitare qui, praticamente, in via di Piazza Yolanda, angolo, praticamente, vicino a via del Trento, praticamente i vari tutti gli uffici a piedi, non alla coda, dalla fica. Chiedo un pomeriggio, ciao già. Camminando anche a Piazza dei Segni. L'importante è che non porto peso, perché se porto peso ci vuole per portare la macchina. Io meno la uso, meglio è. Non so, ma senza l'acqua normale, guarda che è stato il giro, c'è un calore. Giulio, qui Lupo Grigio, mi ricevi, Giulio? Ciao Lupo Grigio, finalmente riesco a sentire la tua voce. Caspita, già era un giorno aspettando di riuscire ad ascoltarti. Come mai hai cambiato posizione evidentemente? Perché oggi passo con molto difficoltà, perché c'è molto quaderno, però riesco ad ascoltare quello che stai dicendo, dai. A differenza di tutte le altre volte che non ero mai riuscito ad ascoltarti. Sono contento di averti ascoltato, avanti e riprendi con la buona serata con Lupo Grigio. Grazie Giulio, grazie, ma probabilmente sarà un problema di propagazione. Poi, come spiegavo prima al doppio room, io ho collegato il mio apparato a una batteria da 12 volt al piombo che ho comprato da Antonello Fusaro e l'ho ricaricata, probabilmente era un pochino scarica, quindi sto uscendo con la massima potenza che è 4 watt. Sì, però è stata una scarica fortissima, proprio quando ha finito di dire 4 watt non capivo se stava ancora modulando, perché è arrivata una scarica fortissima, forse ancora qua ci sono le luci che hanno messo per il Natale, eccetera, no? Quelli ad intermittenza, e probabilmente sarà quello che mi crea un po' di interferenze. Ho capito, un lupo grigio, no, ma il problema è sempre la testa, Sì, capisco che se c'è tensione bassa è ovvio che anche quello influisce, però la cosa principale è sempre l'antenna. L'antenna è quella che conta, non c'è niente da fare. Per cui tu sei magari in una zona rispetto a dove sono io un pochino penalizzato, o meglio sono io penalizzato che non riesco ad ascoltarti. D'altronde devi fare qualcosa per l'antenna. Se fai qualcosa per l'antenna, anche un antennino attaccato alla finestra o attaccato alla ringhiera, o insomma una cosa, e così riesco ad ascoltarti sicuramente. Se no non è possibile, se no non è possibile assolutamente. Oggi, ripeto, è già una giornata fortunata che riesco a capire bene o male quello che stai dicendo. Avanti il pomeriggio. Io sono andato in via 4 novembre da Fusaro e mi ha proposto due antenne, una da boomerang, quella di 3 metri da balcone, e una l'altra da 1,50. Purtroppo non ne aveva, altrimenti me l'avrebbe prestata per fare le prove. Io adesso devo misurare se dal poggiolo sopra di me se l'antenna di 3 metri non tocca, altrimenti provo quella da 1,5 metri. Ok, sì, anche quella da 1,5 metri, la boomerang dovrebbe funzionare lo stesso, perlomeno io l'ho avuta, anzi credo di averla ancora, senz'altro ce l'ho ancora, non so dove l'ho messa, però ce l'ho di sicuro, e devo dire che l'ho usata per tanto tempo e funzionava anche molto bene, per cui dovrebbe funzionare anche a casa tua, perché no, è ovvio. Sì, tu mi dirai, ma bisogna vedere anche la posizione, io sono di punti, non so se tu lo sai, io sono di punti, per cui sono anche in una posizione un po' bassa rispetto a Sassari, perché tra di punti e Sassari ci sono, perlomeno dove sono io, ci sono 90 metri, lo passa 5 metri di differenza rispetto al mare. Io sono a 130 metri, più o meno 135 metri, sempre 2,25, ma dove sei tu sarà ancora più alto di 2,25, però è sempre una questione di posizione, ovvio. Poi tra l'altro l'antenna che ho io non l'ho costruita e l'ho messa nel terrazzo, a differenza di prima, che ce l'avevo in una posizione molto più in alto, di conseguenza avevo una ricezione migliore e anche una trasmissione, ovviamente. Però diciamo che sono anch'io in attesa di riportare l'antenna dove appunto mi renderebbe meglio, per cui sono in attesa che un mio nipote che abita a Carbonia, che ha un'antenna che io gli avevo regalato, adesso glielo chiesto e mi ha detto che me la riporta, e naturalmente le dovrò fare qualche altro regalo a differenza per la differenza dello scambio, dai. Per cui allora la rimetterò in alto dove era prima e avrò sicuramente più ricezione. E va bene, comunque, sono contento di averti sentito per stasera almeno, eh. Allora ti riprendi e fai girare tu poi per Gianni. Ma riprendo io interrogativo? Sì, ho detto riprendi tu e fai girare poi per Gianni. Sì, va bene, comunque guarda, se l'antenna funziona io mi compro anche una stazione fissa, così almeno sto a casa. Comunque tanti anni fa mia moglie ha insegnato al Bipunti, quindi è un quartiere che bene o male conosco anch'io. Va bene, dai Gianni, se ci sei, giro a te, Gianni. No, ci sono. L'antenna, lo so, è molto molto importante, questo che ha una mezza infarinatura, lo so. Comunque io provo questa antenna da balcone e se funziona mi compro proprio una stazione fissa. Sì, ma poi c'è andato di buon piano di radiazione, ne ha meno, capito? Se lo metti sul tetto, sempre quella la ragione, se tu lo metti sul tetto ti dà una differenza. Questo sì, comunque, e adesso ne devo provare una, me l'hanno promesso che una me la prestano, e se funziona me la compro proprio, questo devo provare. E provala, vediamo un po' come va, meglio che se senza una ricorda andrà meglio del portato del normale. Abbiamo cominciato così, un pomeriggio con contatti, e poi siamo andati avanti. C'è chi si è fermato, c'è chi è andato oltre e ha fatto anche noi. Ma poi comunque prova, dai, non ti voglio demoralizzare, però c'è da primo piano, e la reazione è minore, capito? Quello è il problema. Pensate che sono qui davanti malati o cose del genere. Il problema è proprio quello, perché può essere anche al primo piano, ma si vede la città. Io invece, ma ripeto, anche il cellulare PIM dentro casa non funziona. Funziona solo Vodafone, perché c'è l'antenna radio al grande cielo. Io praticamente ce l'ho quasi di fronte, vedo le antenne. Solo Vodafone mi funziona. È una posizione molto, molto, molto, ma anche per la televisione, se non c'è l'antenna estesa, io non vedevo niente. Capito? Magari la prima volta, capito? Io la pressione non la dico. Mi sono, guarda, ho visto, mi sono tirato lì tutto sassa, ho detto, la tua sì che ci prende bene, avrei un'antenna qua, prenderebbe tutto sassa di senza problemi. Scusa, dove ti trovavi? Perché non ho copiato bene, capito? Da qui come? Ah, sì. lo so, là praticamente si vede tutto tanto. Ma posso andarti in macchina qualche volta? di giorno non c'è nessuno che modula il drogatore. Per camioni sì, ci sono. Ma adesso anche i camioni sì, stanno staccando tutti i giorni. Vabbè, però una chiamata generale non è che si può fare con il telefono. E poi da ricordare che con la radio parli sempre, con il telefono se ci sono problemi non parli. Eccolo sì, ma adesso hanno messo anche, hanno fatto un app dalla vita, dove praticamente parli come se fosse al paradiso per il telefono, è una cosa più fredda, non devi apparecchio eccetera, però è tutto praticamente di appare il paradiso, ma tutto virtuale, capito? Ma non è la stessa cosa però, non è la stessa cosa, assolutamente. Comunque, ripeto, con la radio parli sempre, succedono terremoti, allagamenti, e parli sempre, con il cellulare no. Una volta c'era la cella qua nella Vodafone del grattacielo qua. Praticamente i Vodafone non funzionavano. È così infatti. Io dico ragione. Avanti. Ok, già. Sì, beh certo. Sì, no, però c'è da dire questo, che uno se dovesse adottare il sistema Cibitoco, quello sicuramente lo possiamo sentire nella versione canalizzata, e per cui il telefono sicuramente arriva qua e un po' dappertutto, almeno per una distanza di 30 km lo possiamo sentire. Se poi parliamo della versione nazionale o mondiale, quella è una versione che a me sinceramente non piace. Occorrenza, se volessimo provare lì sulla versione canalizzata fino ai 30 km non ci sarebbero problemi nel ascoltarci, è come telefonarci praticamente col telefonino, no? Però ci vuole lo smartphone, chiaramente bisogna farsi quella iscrizione per così dire, anche se è gratis, non si paga niente e sarebbe una soluzione. Però come sta dicendo Lupo Grigio, l'abbiamo detto tantissime volte anche noi, la radio è sempre la radio, no? Non c'è niente da fare, non c'è il paragone a confronto col telefonino. Col telefonino è facile, con la radio c'è un'altra soddisfazione, indubbiamente. Ma la soluzione è solo quella, o Lupo Grigio, l'antenna, si è sempre detto, un barattino da 10 lire o meglio da 10 euro e un'antenna da 50 euro, si è sempre detto quello che importa è sempre l'antenna, anche se tu hai un baracchinetto da niente che ti dà anche un watt solamente, però se hai l'antenna efficiente ti sentono dappertutto, per cui la soluzione migliore è sempre quella, l'antenna. Naturalmente mettendola sul tetto, è ovvio, come ti ha detto Gianni, perché sennò ci potrebbero essere dei problemi anche mettendola nel terrazzino, perché negli anni passati andava bene anche nel terrazzino, ma oggi l'essere fatto di segnali con tutte le varie televisioni, con tutte le varie frequenze che ci sono in aria, per cui c'è un'attenuazione grandissima, cioè, ma se la metti sul tetto di questi problemi non se ne verificano. Allora l'unica soluzione è quella, interessarsi a piazzare un'antenna sul tetto e via, e così almeno si è risolto il problema. Avanti, Lupo Grigio. Sì, su questo do assolutamente ragione. E adesso, per adesso sto avendo altri tipi di problematiche, e mia moglie ha fatto domanda di pensionamento, quindi patronati e altre cose. Poi il giorno in cui si scrive che gliel'hanno data sta benedetta pensione, allora respiriamo e posso fare tutto quello che voglio. No? Sì, è certo, quello è importante, certamente. Ma per dire, poi, ma se uno non vuole proprio spendere troppo, ci sono delle antenne che a livello di 60-70 euro vanno stanno comunque bene, c'è Marco che ce l'ha, ad esempio Marco Condon, che ce l'ha lui l'antenna così, ed è più o meno nella zona dove sei tu, eppure esce abbastanza bene, si fa sentire dappertutto, anche fuori il continente lo sentono, quando c'è la corporazione chiaramente. Il discorso è sempre quello, l'antenna, poi non è detto che uno debba spendere per forza 150 euro per l'antenna, no, assolutamente no, come ha speso ad esempio in questi giorni di Gianni che è in attesa di avere l'antenna nuova che gli deve arrivare, però ci sono antenne che 50, 60, 70 euro ti danno lo stesso delle soddisfazioni, non certo a quelli verdi, è come quella che ha preso Gianni, però è abbastanza performante lo stesso per fare 4 chiacchiere in città perlomeno, non c'è problema. E anche nella zona limite offerta a Sarisesto, paesi tutti secondari riesci a sentire e a farti sentire anche tu, anche con un baracchinetto di pochissime watt, perché intanto il baracchino deve avere, per legge deve avere 4 watt, 5 watt massimo, poi naturalmente c'è quello che ne ha 10, c'è quello che ne ha 15, c'è quello che magari ha anche un lineare da 100 watt e spinge con quello. Insomma, ci sono tante soluzioni, ma per parlare a Sassari e zone limitrofe basta anche i 4 watt e un'antenna efficiente, quello che interessa. Avanti il lupo grigio. Sì, certamente. Come ho detto prima, adesso dopo che mi sbrigo questa faccenda ho la testa tranquilla e posso fare tutte queste cose. Comunque effettivamente anche con un watt, però con un'antenna che ha un guadagno altissimo si riesce a parlare con molte persone. Io avuto l'altra volta con propagazione, evidentemente c'era una propagazione, sono riuscito a parlare con una barra pesante di Alghero. Sì, ma certo, questo sì, ma è così, avendo una posizione e l'antenna performante, problemi nel farsi sentire non ce ne sono. Ad esempio, a quanto ho capito tu sei nella zona di Cappuccini, quella zona di Dai, e io ho detto che sono qui a Punti, ad Alghero ci arrivo malissimo, perché? Perché sono ai piedi di Monte Oro praticamente, davanti a me c'è Monte Oro, la montagna, e non riesco a scavalcare alla grande come si dovrebbe, mentre invece da dove sei tu, con un'antenna performante, arrivi anche con dei buoni segnali, perché anche Marco è dalle tue parti, e dunque non ci sarebbe tutta questa difficoltà poi nel farti sentire anche da Alghero. Il discorso è sempre quello, l'antenna è installata sul tetto, non occorre un semplice baracchino o monovatto possibilmente, che danno 4 watt solamente, 4 e mezzo, 5 watt massimo di potenza, è un'antenna performante, è uno sistemato, problemi non ce ne sono, ecco qual è il discorso. Uno dice ma una volta non posso mettere l'antenna sul tetto, no, c'è il diritto all'installazione dell'antenna sul tetto, c'è il diritto sacrosanto, la legge lo consente, nessuno si può opporre del condominio se per caso qualcuno dovesse protestare, nessuno può dire niente, perché è un diritto sacrosanto all'installazione dell'antenna sul tetto, di qualsiasi tipo di antenna, per cui non avrete problemi. Va bene, facciamo girare per gli anni, vai già. Perché è un'antenna a stella bianca quella, quella è un veramente no, quella assolutamente, come quella che ha Gianni, che ha Marco, andrebbe bene, se la mette sul tetto, se ha la possibilità di metterla sul tetto senza nessun problema, senza difficoltà, può comprare anche un'antenna come quella che ha Marco, per iniziare ce n'è in abbondanza, oh Gianni. Beh, questo non te lo so dire se ce l'ha la GBC, ma suppongo che qualcosina avrà. Ma la GBC, io sinceramente parlando, tu lo sai benissimo, io non ho molta simpatia ad andare in condivuzio perché non mi piace la persona, per cui che lo gestisce. Per cui al limite la ordinerei da fuori, intanto oggi come oggi, in un paio di giorni te la mandano. Dunque non ci sarebbero problemi, cioè, si può anche aspettare 2, 3 giorni, 4 giorni, anche una settimana per la bella, pertanto non è quello il problema, se non c'è qua, anche perché qua magari ce la farebbero pagare anche di più di quanto costa in continente. Sì, quello sì. Poi sembra di entrare in farmacia, per non parlare dell'indurgine che c'è, non c'è tutto qua a camminare, non c'è più di scattacuri, sembra un magazzino, io il magazzino non se ne può più, ma molto meglio, era tutto su di scappare, tutto messo bene, non mi voglio fare un magazzino, pare. Ma per carità, a me non mi piace lui, non ho niente da dire, lui giustamente deve lavorare, ci mancherebbe altro, certo. Anzi, io gli auguro tutta la fortuna che lui desidera, figurati un po'. Però non siccome non mi piace lui, io lì non ci vado, tutto lì. A preferenza andrei meglio da Fusano e chiederei lì. Se io proprio devo comprare una cosa, vado a Fusano, non vado da lui. Ma solo esclusivamente perché mi ha tempato con lui. Non mi ha fatto niente, non ci conosciamo, non lo conosco, lui non conosce a me, io non conosco lui, però tutte le volte che sono andato mi ha dato una brutta impressione, non mi è piaciuto per niente, a pelle forse, sarà quello che, non, che a pelle non mi piace, allora è per quello che non ci vado, capito già? Vabbè, avanti il pomeriggio. Sì, io l'altra volta sono stato da Antonello, là a 4 novembre, mi ha fatto vedere un'antenna senza radiali, adesso non ricordo il nome, ed è telescopica, credo che arrivava su 3 metri. Non so, forse prima di comprare chiedo consigli a voi che siete esperti. Bisogna sapere che antenna è. No, guarda, non lo ricordo, sinceramente. Comunque è un'antenna senza radiali telescopica che raggiungeva circa 3 metri. Ma non la conosco. Questo, ripeto, è il meno, perché prima di comprare chiedo consigli a voi che siete molto più esperti naturalmente di me, quindi voi avete esperienza in queste tante. Guarda, adesso sta facendo le buone antenne da Sirio. Da Sirio ci sono problemi di radio, ne fa anche in marcia, però costa un po' di più. E poi c'è anche Don Francesco Euro, come si chiama? Viene questo proprio. Don Francesco Euro sempre dell'assidio che ti comanda, lo faccia in mania, certamente. Adesso io devo chiedere scusa al suo perché ha chiamato mia moglie, che adesso non ricordo il codice di tutti quale moglie, e devo andare a fare il vitamino, cioè cenare. Poi vi ricordate qual è il numero che identifica la moglie, l'interrogatore? 50. Bene, allora mi ha chiamato il mio comandante, cioè il 50, e mi ha detto al cellulare, scendo l'imperativo, la cena è pronta. Ce l'ho scaricato, già che comunque me lo ricordavo da quando ero ragazzo, 7351, 88, Grigrellina, tutto. poi vado in orizzontale. Cambio. Ok, lupo grigio, sì. Anch'io ti ringrazio, dai, per le quattro chiacchiere che abbiamo fatto stasera. Sperando di sentirci al più presto, magari in ultime condizioni, che suppongo che se tu hai tutta l'intenzione di restare in frequenza, ti attrezzerai senz'altro alla grande, per cui avremo modo di discutere e chiacchierare del più e del meno, magari anche tutti i giorni. Bene, ciao Lucio Pomiglio, buona cena allora. Buona carica batterie si dovrebbe dire in questo caso, utilizzando il codice Q della frequenza, ma ormai non si usa più, ormai parliamo come parliamo al telefono. Una volta si usava proprio sempre, proprio per tantissime cose, invece oggi non si dice più. Allora ti dico solamente buona carica batterie, buona 144 e soprattutto carica buona del pene e le pupille, così una volta si diceva. Ma oggi tutte queste cose le abbiamo lasciate prendere, dai, perché con l'avvento dei nuovi, che poi magari era gente che non conosceva il codice, allora l'abbiamo lasciato perdere, poi adesso siamo in quattro gatti, per cui una volta erano tante state di CB, ma adesso non c'è più quasi nessuno, siamo in pochi. Ci siamo noi su questo canale, sul 10 e sul canale 23, per una questione di tamponi, diciamo così, con quelle che sono nel 23. Allora siamo due gruppi differenti, uno sul 10, un gruppo sul 10 e un gruppo sul 23, però ripeto, sul 23 comunque ci parliamo lo stesso, non è che noi ci parliamo, però ci sono delle persone che non vanno molto d'accordo, allora siamo divisi in questa maniera. Questo non vale per me, non vale per Gianni e non vale per altri anche. Vabbè, ciao un pochino, alle prossime, grazie ancora per la chiacchierata, ciao, buon appetito. Ciao, spengo la radio. Così è già, è d'altronde, perché è una stupidaggine questo fatto di essere separati in casa, si può anche dire, ma non è possibile che si possa essere così, poi non è bello la ragione perché uno debba sia fatta la volontà di chiunque, non posso dire altro. Se la gente va bene così, figurati se non va bene a me. Io sono per la pace, va bene parlare con tutti, non ho niente con nessuno, non me ne frega niente se qualcuno ha dei problemi. Va bene, già, sono le 8 meno 7 minuti. Non so se devi portare il cane, ma sono molto, intanto io devo scendere anch'io per la cena, con Franco. del Monte Passo, lui si trovava esattamente, aspetta dov'era? Ah, nella Repubblica Dominicana, mi sembra che era, sì, in quella zona lì, insomma vicino ad Haiti, in quella zona era, ho già. E abbiamo parlato con lo Civiton, lui era in vacanza, è andato lì, ci siamo sentiti prima al telefono, poi siamo passati lì, siamo passati e si sentiva che erano nella guida, e lui era in vacanza, beato lui, e figurati per dirti no, e allora va anche bene, ma si potrebbe utilizzare, come stavo dicendo poc'anzi, la versione canalizzata. Quella ci andrebbe bene, perché sarebbe come parlare al baracchino già, non ci sarebbe difficoltà nell'ascoltarci con quella. Però, ripeto, la radio è radio, non si può paragonare e non si può certo scambiare la radio col baracchino, sono due cose completamente differenti, però all'occorrenza si potrebbe anche utilizzare il telefonino, però nella versione sempre canalizzata, perché l'altra l'abilità, sì, qualche volta ci ho parlato, intanto entro a salutare qualcuno, ma niente di più, una volta ho sentito anche Salvatore Branca, dall'Austria, per dirti no, anzi due volte l'ho sentito, non una volta, due volte. Lascia il tempo che trova, ecco Gianni, non mi soddisfa il CB Talk, la radio è un'altra cosa. Poi Salvatore non è cambiato di faccia, io ce l'ho come amici. No, sta con la fisionomia diversa. No, io su internet non ci sono, non ci sono mai entrato e non mi interessa proprio entrarci nemmeno. Quando io accendo il computer guardo tante altre cose, vanno su Facebook, dunque non l'ho visto. Però ci siamo sentiti al baracchino, cioè al telefono, ci siamo sentiti, me l'aveva detto di la verità Roberto Corrado, me l'aveva detto, cosa così e così, e il giorno è capitato che l'ho sentito. Anche lui ci parla molto spesso, Roberto, ma anche al telefono. Si fa chiamare con lo stesso nominativo che aveva al baracchino, si fa chiamare su Civitò con Salvatore. Sempre come negozio santo, lo sai? Beh, non lo so che lavoro faccia lì, però a lui gli sta bene, meglio così, se vive bene, tranquillo, perché no, sono contento per lui. Aperto un negozio, l'ho facciato di è meglio così, ma si vede che ha iniziato adesso un'attività in proprio, perché so che lavorava come dipendente prima. Sì, lavorava in una fabbrica di panni di solaio, e lui prima è stato come operaio, poi era passato a capo operaio, io non so perché ci parlo su. Ho capito, sì. Vabbè, meglio un po' così, sto contento per lui. Si è rifatto la sua vita lì, si è rifatto, a differenza di quella che faceva qua. Evidentemente se è andato lì vuol dire che gli conviene e sta bene anche, se no sarebbe ritornata qua. No, lui ha detto che quella fabbrica li pagava anche 10 minuti che faceva lì. Sono fiscalissimi e pagano la metà delle tasse che paghiamo qua. In tantissimi posti poi si paga molto meno come tasse, infatti tanti pensionati se ne vanno fuori, se ne vanno, tipo ad esempio anche in Portogallo, si paga, cioè si vive meglio con la pensione italiana, andando fuori così vale di più, perché in Italia è troppo cara la vita, per cui andando fuori in certi posti si vive meglio, anche prendendo solo la pensione italiana, perché quei soldi bastano e avanzano anche per vivere fuori in certi posti, ma non in dappertutto, sia ben chiaro. È vero, i posti pensionati vanno fuori, e invece lo zio di mia moglie voleva venire qua, è stato tanti anni in Francia che lavorava nella fabbrica di mattonelle, tanti anni in Francia più i primi passi è sempre quella che conta di più, però tante volte uno è costrettissimo ad andare fuori per poter avere un lavoro, per poter avere una sistemazione. Allora la fin fine è sardo di solito, non dico tutti, però la maggior parte dei sardi che se ne vanno fuori pure rientrano in Sardegna, perlomeno quando arrivano alla pensione di solito rientrano. Non è che sono tutti quanti così, perché ci sono tanti che rimangono fuori e dicono oh, mai più dici ci ritornerò. Però si sa, l'amore per la propria terra c'è sempre, si sente, ovvio, ovvio. L'esempio di questo amico mio è stato in Australia, a Sydney, tantissimi anni, ha lavorato lì e cose, quindi sono diventati grandi, ha preparato il campo. E ha messo quel brutto acqua che ce l'ha preso una bara dietro, adesso non so che via è quella lì, quella che c'è di fronte alle carceri, la prima traversa che si trova, c'era questo bar che era una miniera, se la lasciava questo di notte, lavorava anche di notte, e stava a rompere quel che si erano fatto la ragazza, la figlia del ragazzo. Purtroppo è così, solo che in Australia sei proprio dall'altra parte della terra praticamente, finché sei in Austria, vabbè, ma in Australia sei troppo lontano dalla tua terra, per cui questo è il carattere già, c'è quello che magari ci trova bene e ci rimane, mentre invece c'è quello che sente la mancanza della propria terra e ritorna. Ci sono queste situazioni, è ovvio, no? Prendiamo ad esempio Angelo Mello, poveraccio, era 35-36 anni, fuori, 37. La madre che vive sempre qui a Sassari, abita le parti lì dei carabinieri, su in alto, in quella zona lì dove c'è la caserma dei carabinieri, la madre abita in quella zona lì, abita. Ogni tanto lui veniva in Sardegna per vedere la madre, eccetera. Purtroppo è stato sfortunato, si è ammalato ed è morto a soli 57 anni, dopo che aveva fatto una bella carriera nell'arma della polizia, perché era vice commissario, e per cui non ha avuto la fortuna, magari secondo me non penso che sarebbe mai rientrato, perché lui lì aveva la famiglia, aveva e ha la famiglia, c'è la moglie, i figli, tutti continentali, per cui non credo che nemmeno lui sarebbe mai voluto rientrare qua. Però non si sa mai nella vita dire mai dire mai, no, come si dice. Guarda, lì ho un amico che lavora a Odessa, vicino a Berlino, e si è sposato lì. Vabbè, quindi non è altro che la moglie non è può avere, però la moglie non vede l'ora di venire in Sardegna, non vede l'ora, perché gli piace la Sardegna, gli piace il mare, gli piace. E questo lei ha chiesto, detto, quando tu fai pensione, la prima cosa che facciamo è comprarci la casa in Sardegna. Certo, ci sono quelle persone che sono innamorate della Sardegna, perché no? Ma le piace solo perché? Perché magari sono venuti già in vacanza, si sono trovati bene, le piace la vita climatica che c'è qua, il mare e tutte queste belle cose, il carattere della gente, però tutto sommato in qualunque posto della Sardegna, anche a Cagliari, che è Cagliari, che è la città migliore che c'è in Sardegna, non, tutto sommato non c'è vita, dai, la vita è fuori, non è certamente qua o già. Poi c'è quello che si accontenta e va bene, certo, la Sardegna è una gran bella terra, è una terra da apprezzare veramente, soprattutto perché è appassionato del mare. Allora, onestamente io con mia moglie abbiamo deciso di andare a farci un po' di vacanze a Cagliari, ma non tanto, una settimana e mezza, e abbiamo deciso di andare a Villa Civile, e abbiamo preso un albergo lì, e l'albergatore ci ha chiesto, ma come mai, dove siete voi, ma se pensate così, dove siete pensate, caspita, tutto il mare bello che avete, siete tutti qua, e adesso ci siamo soffre. La Sardegna è tutta bella, dal sud al nord è tutta bella la Sardegna, no, non ce ne sono pochi brutti. Però è sempre una terra che non c'è vita, c'è gente abituata, c'è gente che vuole divertirsi, proprio qui in Sardegna non ce ne sono possibilità di divertirsi come si deve. Fuori magari c'è più vita, c'è anche più delinquenza fuori, e questo sia ben chiaro, a differenza di qua della Sardegna, che siamo più tranquilli, è un popolo di persone più tranquille, anche se di tanto in tanto anche qua si sente qualcosa. Però non è mai come la vita che puoi avere, per dire, non solo il continente, Milano, Roma, Bologna, Firenze, tutti questi posti qua, è tutta un'altra vita oggi. Sì, ma magari so sì un poco, ma anche qua c'è più difficile, c'è più difficile, ci sono le discoteche, ci sono il periodo del mare, ci sono le animazioni, c'è acqua, c'è queste cose qua, ci sono, bisogna avere solo soldi, ne basta, soldi, soldi. E abbiamo quel litano ebreo che canta soldi e di sangue sardo anche, tra l'altro, per cui facciamo cantare a lui soldi, soldi, ma poi i soldi sono i pochi, chi ce l'hanno? Pertanto non è quello il discorso, ma non è solamente questione di soldi già. È questione di perché devi vedere altre cose, insomma, girare il mondo significa anche farsi un po' di cultura, no? Per cui qui la cultura di Sardegna non è che te la puoi creare troppo, capito? Mentre invece si giri, qui vedi solo belle spiagge, bei terreni incolti, tra l'altro, perché la maggior parte dei terreni in Sardegna sono incolti. Invece io guarda, noto molto bene tutti gli anni quando c'è il Giro d'Italia, oppure quando c'è il Giro di Francia, ad esempio, parlando anche della Francia, vedo quei terreni, ci sono tutte le sere, ci sono le dirette di ciclismo, no? E attraversano certi paesi, ma io guardo con bocca aperta quando vedo tutte quelle belle pianure, oppure quelle montagne, tutte belle le campagne, tutte belle lavorate, a differenza qua in Sardegna che non vedi altro che boscaglia, sono pochi i posti dove il terreno è tenuto conto come si deve, mentre invece lì rimane a bocca aperta. Ma sto parlando anche di paesetti, non sto parlando di grandi città, tipo di paesetti dove c'è vita forse più povera anche di quella che si può condurre in Sardegna, però il terreno, le campagne sono tenute bene, è tutta un'altra cosa già, dai. Io quando sono andato a Sirmione sul lago di Garda, in vacanza, praticamente una mattina mi sono alzato presto e sono andato a fare un giro, e dopo sono andato a fare un giro all'aria aperta, e no, ho detto come sei andato, e ha fatto il giro, vabbè, così si abbigliato, sono andato a fare un giro, beh, non vedevi altro che giardinieri e anche infatti, mettendosi a posto i giardini, dovevi vedere che forma davano agli alberi, agli arbusti, eccetera, eccetera, tutte forme praticamente di animali, di cose, devi vedere come lavorano i giardinieri. I giardini sono i più di tutti. Sirmione è una bellissima città, io sono tornato tre volte perché mi piace. Sembra un portocervo continentale, la stessa cosa, cioè è una veglia, praticamente c'è un ponte dove passa la navigata, con i cigni, qua, bellissimo, vedi le capre che montano, sono l'entrata di Canta, al semaforo devi spegnere la macchina, perché sennò ti vengono tutti esorbitanti. Beh certo, no, è tutto un altro modo di vivere, dai, sono più avanti di noi, dai, bisogna riconoscere, pensare, sì, noi dobbiamo difendere la nostra cultura, la nostra Sardegna, tutto quello che vuoi, però per essere obiettivi bisogna anche ammettere che c'è un'altra vita lì, sono per non parlare poi del lavoro che è più facile trovarlo, poi cosa trovi qua? Non te ne tra giorno stavo leggendo al computer dalla Sardegna, in questi ultimi anni sono spariti a roba di 10.000 giovani, sono spariti, se ne sono andati fuori, se ne sono andati. Qui è l'unica cosa che vedi, non vedi altro che gente straniera adesso, ecco, si sta ripopolando in questa maniera la Sardegna, però alla fin fine non c'è più niente, non a caso certe case si rivendono addirittura per un euro. Perché? Perché si stanno spopolando i paesi un po' tutto. Sassari che Sassari, da quanti anni è che noi sentiamo dire Sassari è 120.000 abitanti, sempre quello è il numero degli abitanti, non aumenta mai, perché? Perché non c'è vita già, dunque non è possibile, dai. Quando si va fuori è tutto un altro discorso, bisogna riconoscere che loro hanno un'altra mentalità, a differenza della nostra, forse lavorano di più perché hanno più possibilità, questo non lo so, o forse perché hanno addirittura più voglia di lavorare, anche questo è da tenere in considerazione. Io chiaramente dalla Sardegna non me ne andrei mai, certo non me ne potrei mandare mai, perché sono nato qua e dunque mi devo rimanere qua, e mi piace rimanere qua, però non riconosco che fuori c'è più vita, dai. C'è il mare che ci divide dalla penisola, per cui siamo costretti a vivere un altro tipo di vita, il discorso è quello. Anche nel campo dello sport, ad esempio, se vogliamo vedere la manifestazione sportiva ad altri livelli, qui quando è dove che la vedi? Non la vedi da nessuna parte, a meno che non ti fai una passeggiata a Cagliari, quando gioco a Cagliari da vedere per dire una squadra che viene da fuori. Ma lì invece no, lì in tutte le città ci sono grandi squadre, ci sono grandi atleti, c'è di tutto, c'è teatro, c'è il cinema, qui anche il cinema non c'è più, c'è solamente questo cinema moderno, chiamiamolo moderno, che poi non so nemmeno come si chiama adesso, ma non c'è più niente, insomma, ecco, si stava meglio quando si stava peggio, perlomeno a livello di coso, di svago, si stava meglio quando si stava peggio, questo bisogna dirlo. Oggi cosa c'è qua? Non c'è più nulla di nulla, proprio. Non è che poi a dire, beh, oggi me ne vado a vedere un bel film, e dove vai a vedere un bel film? Se film non ce ne sono più, cinema non ce ne sono più, c'è solo questo che da due o tre programmi, mi sembra, in determinati giorni, non almeno tutti i giorni, per cui, lascia aperta. Vabbè, ma il moderno adesso un cinema non fa più il cinema, perché c'ha tre sale, vedo di sala c'ha un film diverso, quindi fa come se fosse un film cinema, ma io al moderno sarebbe stato l'ultimo che mi avesse detto che fosse rimasto, avrei puntato più sull'Aristo, e invece l'Aristo mi fa così male per le luci che sono venuti. Era un cinema sempre affollatissimo con la fila fuori, non capisco come ha fatto a chiudere. E come ha fatto? Perché qua non ci sono imprenditori che vogliono spendere. Penso che la gente che ha soldi ce n'è di sicuro, però non hanno nessuna intenzione di fare imprenditori, per cui una volta che spariscono gli anziani, quelli che hanno fatto impresa negli anni passati, oggi come oggi un giovane non vuole fare l'imprenditore ed ecco che sparisce l'attività. Il discorso è questo, è l'altro, è il moderno, è il verde che è il verde, le quattro colonne, addirittura anche lo Smeraldo, io mi ricordo, da ragazzo anche lo Smeraldo, anche a Cappuccini, mi ricordo, non mi ricordo nemmeno come si chiama quel film che col cinema che c'era una volta a Cappuccini. E poi a fianco c'era anche quello dei frati, o dei preti, come lo vuoi chiamare, anche lì. Stiamo, sto dicendo, si stava meglio prima, quando si stava peggio, di come di oggi che si sta meglio, guarda. Rex, caspita, mi ricordo, ti ricordi Rex che era una tale fila che si formava soprattutto il sabato e la domenica, da un marciapiede all'altro, là, per una larghezza di 50 metri, tutti ammucchiati facendo il biglietto, proprio perché c'era vita, oggi non c'è più niente, no? proprio completamente niente. Se vuoi vedere una partita di calcio devi andare a vedere queste ragazze, tipo i punti ad esempio, tipo che so io, Lantini, che è vicino a casa tua, col campo che c'è vicino a te, questi sono i diversivi e molto di divertirsi. Uno può divertirsi deve vedere la Juve, il Milan, l'Inter, Napoli, tutte queste squadre qua, squadre di Serie A, la Torres non ti dà queste soddisfazioni, perché la Torres, io sono stato andare alla Torres, senza esagerare, sono 50 anni senza andare alla Torres, perché avevo promesso, fin quando la squadra della Torres non sa arrivare in Serie B, non andrò mai più a vedere una partita di calcio, perché ero stanco di vedere sempre la Torres in quarta serie, massimo in Serie C, quarta serie, Serie C, addirittura promozione anche. Caspita, mai è salita. E poi ho fatto anche questo ragionamento, questa piccola riflessione. Tutte le squadre che venivano qua, che hanno giocato con la Torres, tutte indistintamente, sono riuscite a salire almeno in Serie B. E più di una è salita anche in Serie A. Quando è che la Torres a lui ci ha dato la soddisfazione di farci vedere queste grandi squadre, queste grandi partite? Mai! E allora, vedi bene che non va avanti niente, non va avanti. Prima c'era un po' la critica leggera, c'era un po' il pugilato, c'era anche il ciclismo, ma adesso manca tutto, non c'è nemmeno quello più. No, cosa vuoi che ti dica? No, certo, era una città che non c'è, non ti offre niente, ma proprio niente di niente. Il periodo delle figlie, tu senti, capita, c'è un'invasione di persone che vanno tutti in vacanza e si parla di 7, 8, 10, 15 milioni di vacanzieri nel periodo delle figlie, che dall'Italia se ne vanno fuori, se ne vanno, e magari vengono anche qua, ma non più di tanto. E invece in continente si muovono, ci tengono di più alle figlie, forse perché hanno più possibilità, che ne so. Insomma, la differenza c'è, bisogna riconoscerlo, è inutile di stare lì, pure che noi siamo ospitali, che noi mangiamo bene, tutte queste cose lo sappiamo benissimo, forse mangiamo meglio anche di come mangiano loro. Non basta solo quello. Facciamo la lo so. Ah, tutti quelli che si muovono poi dietro la pandemia, quando vanno fuori, cosa fanno? Si fanno la settimana, che fanno? 10 giorni, così di vacanze, perché tanto di più non se ne fanno, anche perché non se lo possono permettere. Invece a continente se ne fanno 40 giorni, se ne fanno tutti gli anni già, e tu quando dici, probabilmente loro mangiano di meno e conservano più soldi per farci le vacanze, probabilmente anche quello è vero. Però nella vita ci vuole tutto, non è che ci vuole solamente il pranzo buono tutti i santissimi giorni. E quello sì, a noi ci piace mangiare e mangiamo, perché quando vengono qua loro sono contenti di restare perché mangiano, mangiano bene. Però poi alla fin fine non ci apprezzano nemmeno, perché vengono qua, fanno il loro comodo e poi se ne vanno. Addirittura se la stanno rubando la Sardegna un po' per volta, la sabbia e tutte quelle pietruzze di sabbia, eccetera, già l'hai visto? Che vedi bene, vengono qua, fanno il loro comodo, perché non rispettano nemmeno la nostra terra. Tutto le tartarughe ci stanno portando via, non sono attento che diciamo le tartarughe ce le prendono pure. Via. Un sacco pieno di tartarughe c'è. E ce le stanno portando via di quelli terroristi. Che sono in via di estinzione, tra l'altro. Dentro non si possono più tenere. Una volta io ne ho trovato una sulla profitto di io. E stavo cercando, visto che c'è il curvo, il cemento, no? Stavo cercando di passare tra un corso dell'acqua, c'era un buco dove passa l'acqua, e stavo cercando di entrare lì, ma il buco era talmente piccolo che dentro passava la testa, e stavo annaspando, era in mezzo alla strada, io ho rischiato, mi sono fermato, l'ho presa e me l'ho portata a casa. Ma non vado la vita, che bella, come la chiamiamo questa cosa, non vado lì, papà domani la deve recuperare, perché questi qui non si possono tenere. E lui mi ha detto, se no mi deve chiamare la forestale, se la vuoi tenere, che è lui denunciarla, che lui come si fa per denunciarla. Beh, lo sai che ha chiamato la forestale e gli ha detto, continuiamo sul sito io, gli ha detto, buongiorno, abbiamo trovato una tartaruga sulla multitudine, e papà l'ha portata a casa, la vorremmo denunciare, no, mi ha detto, non si può più denunciare la tartaruga, perché la liberava dopo l'avete trovata. E lui gli ha detto, ma papà l'ha trovata in mezzo alla strada, la libera lì, che si la schiaccia. E gli ha detto, liberate la bella zona dopo l'avete trovata, andate sulle campagne e si riporta a piccare in ambiti, non si può manco passare, siamo messi nel rito, non forse io te ne devo ammazzare per portare. Ho liberato vicino a casa. Sì, basta liberare la campagna e va bene. Sì, lo so. Infatti uno non lo può tenere, ma se c'è una campagna per dire devono essere libere, non devono essere nemmeno recintate. Io ce l'ho un amico che ne ha diverse, ne ha, ma addirittura perché sono latte, nati lì in quella campagna, perché ha incominciato magari con una coppia di tartarughe e adesso ne ha, io penso, 7, 8 o 10 forse anche, per dire, no? Però sono libere in campagna e non è che c'è da lui dentro casa, no? Non li puoi tenere dentro casa, assolutamente, c'è una multa, c'è anche una denuncia, tra l'altro, per uno che si porta le tartarughe a casa, no, no, assolutamente, ci mancherebbe altro. Dice, ma è tutto in campagna? Sì, in campagna ce l'ho, è così, per conto loro, in campagna, e non no, li puoi tenere, certo che li puoi tenere, sono liberi, e gli animali stanno bene così, per cui no. Ah, vabbè, dai, adesso le 8 e 26 minuti, io scendo a mangiare già. Ci sentiamo domani eventualmente, domani probabilmente ti arriva anche l'antenna e così ti devi dare da fare poi per ripiazzarla. Ok? Ciao già, grazie della chiacchieratina, dai, a domani. Ciao. Ciao, ciao.